La Corte dice molto esplicitamente che questo muro ha violato interamente le convenzioni internazionali, ha violato i diritti dei cittadini palestinesi e anzi chiede anche che le perdite subite dai contadini palestinesi, dalle famiglie palestinesi, vengano rimborsate dallo Stato di Israele. Sentenza giusta, il problema è come verrà applicata. Si dice, ed è così, che la Corte dell'AIA non ha potere vincolante, nel senso che non è lei che possa decidere anche l'applicazione delle sanzioni o delle pene, ma certamente questo però lo può e lo deve fare l'Assemblea delle Nazioni Unite e soprattutto il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Purtroppo nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la presenza degli Stati Uniti ha sempre impedito in tutti questi anni che le risoluzioni delle Nazioni Unite sull'applicazione delle proprie risoluzioni, che fin dal 67 chiedono ad Israele di ritirarsi dai territori occupati, la posizione degli Stati Uniti in realtà ha sempre impedito questo. L'Unione Europea dovrà agire in modo molto coerente con quello che ha sostenuto, sostiene infatti che il muro era un muro sbagliato, che i muri non si costruiscono, che si devono costruire ponti e negoziati per la pace, ha ribadito più volte che è necessario riprendere i negoziati. Ecco, mi auguro che l'Unione Europea sia coerente con questa posizione e non decida di rendere, come in realtà poi aveva fatto all'inizio, di dire che non è il luogo preposto la Corte di Giustizia per risolvere le questioni. È vero che quello non è il luogo preposto, però quello che è vero è che i negoziati che l'Unione Europea auspica in realtà non vengono fatti. Ci troviamo di fronte a una politica di Sharon, che è una politica militare, di annessione di territorio e di atti unilaterali. Per cui mi auguro, e noi dobbiamo operare affinché l'Unione Europea invece chieda con molta forza l'applicazione di questa sentenza e faccia un passo in più, chieda ad Israele di rispettare l'accordo che ha firmato con l'Unione Europea, che è l'accordo di associazione, e siccome invece Israele non rispetta questo accordo, perché nell'articolo 2 di questo accordo è scritto che non ci devono essere violazioni dei diritti umani, altrimenti l'accordo viene sospeso, ecco, credo che l'Unione Europea dovrebbe anche chiedere e premere su Israele perché concretamente realizzi quello che la Corte di Giustizia dell'AIA ha fatto. Il Parlamento europeo fin da subito ha dichiarato in alcune risoluzioni che il muro è un muro illegale e che non deve essere costruito, e credo che questo diritto che ha risancito la Corte dell'AIA vada anche ascritto alle grandi azioni fatte da palestinesi e israeliani insieme anche all'internazionale, che in questi due anni si sono opposti alla costruzione del muro pagando anche dei prezzi alti. Molti israeliani sono stati caricati e anche feriti dalla polizia, dai soldati israeliani, quando si trovavano insieme a cittadini palestinesi, anche internazionali, per cercare di impedire per esempio la distruzione di una casa, lo sradicamento di un albero. E questo è il movimento che dovrà continuare, questa capacità da parte di giovani israeliani, dei soldati che si rifiutano di andare a uccidere civili nei territori occupati, di donne che costantemente dicono che l'occupazione militare uccide tutti e tutti, possa continuare a lavorare insieme a tutti quei palestinesi che cercano una soluzione e il poter vivere nel proprio paese con un proprio Stato attraverso azioni non violente.